l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 13 febbraio alle 10, 7 primi e 49 secondi in diretta dagli studi della Radio 24 di Milano. I compari dei Conti La Belva sono pronti ad augurarvi il migliore dei fine settimana con il loro solito stile un po' abrasivo, un po' corrosivo, ma la nostra intenzione è quella di aiutarvi a capire meglio un po' di cose, non perché noi siamo più bravi degli altri. Ma no, ma è solo carezza alla carta vetrata, dai Oscar, ma sono così, cioè d'affetto, via. No? Lucidiamo, esatto, come dire, la mente dei nostri radioascoltatori. Noi restituiamo ai nostri ascoltatori quello che le nostre compagne sentimentali ci danno durante la settimana, delle carezze e la carta vetrata. No, questa è una pessima battuta maschilista e naturalmente i miei compari stanno sbarrando gli occhi. Non parlavo per me, cara moglie in ascolto, siamo ben chiari su questo, ma comunque i compari vi salutano e vi ringraziano e come sempre vi invitano a intervenire in trasmissione 800 24 00 24 per la telefonata in diretta, per gli sms 349 238 6666. Come sempre, gli argomenti della puntata per consentirvi di prenotarvi e scaricare le vostre considerazioni o ire o reprimende o magari gioie e soddisfazioni, prese d'atto che il fatto che in Italia le cose vanno di bene in meglio. Noi di oggi parleremo di questo. Come sempre partiamo con Mario Seminerio con un'analisi degli aggiornamenti della crisi in Italia sui mercati in questa settimana. Quindi in estrema sintesi il ballo dei mercati sui titoli bancari, A, B, l'Istat che ci dà dati oggettivi su tre trimestri successivi di diminuzione del tasso di crescita del PIL italiano, progressivo, vedremo come interpretarli. Nel frattempo qui godiamo per i disastri degli altri, ma continuiamo ad averne parecchi, per così dire. Dopo questo, un primo blocco su il nuovo intervento nel settore bancario fatto dal governo in settimana e cercheremo di capire quindi quello che abbiamo capito sulla riforma delle banche di credito cooperativo, questi 364 istituti che sono il reticolo territoriale nel nostro paese. Un testo naturalmente non c'è, però dai principi che ha diffuso il governo già si capiscono alcune cose che tenteremo di approfondire. Primo, governo e Banca d'Italia sembrano essersi parlati. Secondo, all'interno del governo sembrano essersi parlati, perché sui giornali di oggi c'è gente all'interno del governo che obietta su alcuni punti di fondo. Terzo, noi tenteremo di capire come può funzionare davvero questo meccanismo di coesione, dei contratti di coesione rispetto a questa holding. Ma come, chi comanderà nella holding? Come farà a comandare una holding il cui capitale è dato dalle stesse banche di credito cooperativo che ne partecipano? Chi e perché è individuato come eccezione? Potrà starne fuori? Sono gli amici di Renzi in Toscana, come dicono alcuni, eccetera, eccetera. Comunque lo faremo con ospiti e sarà con noi anche il presidente di Federcasse. Poi, altro capitolo fondamentale su cui lì sì immagino che alcuni di voi potranno darci una testimonianza fondamentale, perché ci occuperemo di un tema che è uscito dall'agenda pubblica, che pure aveva la sua importanza all'atto della nascita del governo Letta, poi del governo Renzi, i debiti che la pubblica amministrazione continua a non pagare alle imprese italiane. Perché di riffo di raffa siamo a oltre 70 miliardi sempre, quindi il governo l'ha persa la scommessa che aveva fatta da Vespa, l'ha persa ormai da 17 mesi eppure non se ne parla più. E allora sarà con noi l'autore di un libro che sta uscendo che ci spiegherà che cosa si può fare, perché questo torna a pesare come un masso sulle ali della mancata crescita italiana. Quindi chiamateci per dire se siete fornitori della pubblica amministrazione, nel mentre lo Stato vi ha drenato liquidità, quella ve l'ha drenata subito con la reverse charge fiscale, ma nel frattempo i tempi di pagamento voi come avete visto evolverli nel tempo? Siete migliorati, siete peggiorati, eccetera eccetera, sia che avanziate soldi da una regione per forniture, da una provincia, da un comune o dall'azienda sanitaria o da un'azienda ospedaliera, diteci come stanno le cose a vostro giudizio. Ricordo a tutti che Renzi si era impegnato a risolvere il problema entro settembre del 2014, addirittura, altrimenti andava in pellegrinaggio a un santuario. Questo l'aveva detto da Vespa, no? Il famoso il notaio d'Italia. Allora sì, sì. In compenso qua ci affidiamo tutti alla Madonna di Lourdes ancora un po' per riuscire a pagare questa cosa. Detto tutto questo, la Madonna di Lourdes coincide per un caso con la data del concordato del 1929 nella storia italiana, ed è in quella data che puntualmente i presidenti della CEI fanno appelli sbagliati alle istituzioni italiane. No, scusate la battuta, noi oggi non parliamo di questo, però giro d'opinioni rapido, una volta che è chiaro di cosa ci occupiamo in questa puntata, aspettiamo le vostre telefonate, su che cosa vi ha colpito in settimana, Mario. No, ma io proprio di quello mi volevo occupare, cioè se adesso i presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, cioè, diciamo, indicano come devono avvenire i lavori d'aula tra voto segreto e voto palese, diciamo che siamo arrivati alla frutta, al caffè, all'ammazza caffè, per cui, cioè, questo è il punto. Io dico, cioè, se è una situazione di libertà di coscienza, allora, guardate, cioè, la cosa è di una semplicità disarmante. La libertà di coscienza si esercita anche nel voto palese in questi casi specifici, quindi circostanze di opportunità vogliono e chiedono che il presidente dei vescovi che operano in Italia si astenga dal fare questi inviti su come devono svolgersi le procedure di aula e di voto, perché libera chiesa in libero stato e quant'altro, ma cioè, direi che qua proprio non ci siamo, perché passi per quando si va ai referendum, no, e si fa leva sull'astensione, non si raggiunge il quorum e così si va a leva e si porta a casa il risultato, però anche, diciamo, cosa deve essere segreto e cosa deve essere palese, diciamo, e questa non è libertà di espressione, è proprio questione di opportunità. In alternativa, noi proponiamo che per l'elezione del prossimo Papa si svolgano delle primarie. Non l'ha ancora suggerito Renzi, però Renzi l'ha suggerito per l'elezione del successore di Juncker con le primarie. Io peraltro poi mi chiedo come potrebbe avvenire le primarie, no? Quindi alla fine sarebbe un tedesco ad andare al posto di Juncker, non esponenti contrapposti tra il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo. Per la serie, aprire la bocca e darle fiato e siamo qua, adesso ne parliamo. Mi astengo dall'idea di commentare come un organo che sta nei trattati per fare lo scudo dei trattati contro gli interessi nazionali venga invece proposto per primarie, che posso capire per il Presidente del Consiglio europeo, posso capire per tutto, ma non per la proposta avanzata da Renzi. Comunque, invece, Carlo Alberto? Sì, rimango sul filone qui evangelico, se posso dire. A me ha fatto specie che dopo 100 anni di teoria fisica finalmente scopriamo queste maledette onde gravitazionali, e facciamo una scoperta che è fondamentale, che insomma, che taglia in due il futuro della fisica. Però, ecco, qui la metafora è proprio quella delle vergini stolte, delle vergini sagge del Vangelo, perché le vergini sagge in America erano sveglie, avevano le macchinari accesi e l'onda che arrivava dello sposo l'hanno sentita. I nostri, che magari erano anche più svegli, si sono fatti dare un sacco, invece avevano il sensore spento, perché, no, perché lo Stato non aveva pagato, c'era la bolletta in ritardo. Quindi le vergini, la Virgo di Cascina, che pure è tutt'altro che stolta, mi sembrano sveglissimi i nostri colleghi qui a Cascina, purtroppo c'aveva il macchinario spento. E quindi l'arrivo dello sposo è stato purtroppo... invito tutti quelli che hanno letto mancava i giornali l'olio, italiani, mancava la lampada, Oscar. Se hanno visto questo taglio che invece Carlo Alberto ha dato alla lettura del contributo, mancato nel momento decisivo, diciamo nel così. Decisivo c'era la lampada spenta, hai capito? C'era che l'olio, che doveva essere pagato dalla pubblica amministrazione, by the way, era in ritardo. E quindi le nostre vergini, che sono sveglie, per carità, mica si sono stavano dando da fare, non erano tanto vergini. Quindi dai, comunque queste increspature dello spazio-tempo infinitesimali mi ricordano l'andamento del nostro piccolo, un nanometro di variazione. Ci arriviamo subito, perché adesso dopo accaduto un miliardo d'anni fa, esattamente finalmente di quello. Io vi dirò invece che la cosa che mi ha fatto più imbufalire nella settimana, tra le tante di cui mi occupo mattina e pomeriggio, due. Primo, il bilancio complessivo di 15 anni di cartelle erariali nel nostro paese fatto dall'Agenzia delle Entrate. In 15 anni, cari ascoltatori contribuenti depilati in ascolto, 1058 miliardi di euro di cartelle erariali hanno tartassellato le vostre pretese di evasione, e di fronte a questi 1058 miliardi la stessa Agenzia delle Entrate fa l'ammissione che in realtà sono dati trattabili e fondati solo quelli relativi al 5% di questi 1058 miliardi, il 5%, poco più di 50 miliardi, perché per tutto il resto, tra gli errori di fatto, che solo quelli valgono il 20% dei 1058 miliardi, e poi totali incapienti di reddito, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, eccetera, eccetera, e tutto il resto, si va a poco più di 50 miliardi su 1058. Allora, una macchina fiscale che manda 1058 miliardi di cartelle erariali e poi dice, no scusate, in realtà quelle trattabili che poi possono davvero ricavare qualcosa sono pari al 5%. Per me va messa al muro! Chiaro, ecco, questi sono i miei, comprensibilissimo, la mia amorevole cura che vorrei verso i responsabili di un sistema che dice, ma le cartelle trattabili sono il 5%, il 95% per me dovrebbero essere commutati in anni di galera. Ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, rieccoci qua in studio con i compari dei Conti della Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto, Renato Cifarelli, poi ci aggiunge per telefono, e ricordo a tutti in ascolto, telefonateci per dirvi se siete fornitori della pubblica amministrazione, se sono migliorati o peggiorati i tempi, se è cambiato qualcosa dalla promessa di Renzi in poi, e intanto la sigletta per la rubrica con cui cominciamo, come sempre, la nostra trasmissione. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa... La crisi, cari ascoltatori, e diamo atto al nostro fastidio di ciò di cui è giusto dargli atto, perché siccome alcuni di voi hanno detto che noi rompiamo le scatole, siamo gufi, eccetera, eccetera, Mario, però l'Istat ci dice una serie di cosette che purtroppo ti possono e ti devono consentire, non prendetevela con me. Ecco, no, esatto. Ma infatti io, piccola premessa metodologica doverosa, non è che io tragga godimento dal dire che la congiuntura sta rallentando, perché sicuramente ci sarà qualche idiota che scriverà questo, per cui preventivamente si prende dell'idiota. Ci ho detto, da dove partire? Il PIL italiano del quarto trimestre è uscito male, oggettivamente male, ma abbiamo avuto, Germania 0,3, Francia 0,2, però quello francese non è buono lo stesso perché è stato fatto quasi tutto come accumulo di scorte e spesa pubblica. C'è da dire che l'Istituto Statistico Francese pubblica la disaggregazione delle componenti del PIL già alla prima stima, prima e unica stima, mentre Italia e Germania seguono. Noi avremo il dato definitivo da Istat il 4 marzo. Sapevamo che non sarebbe andata bene perché ci sono stati dei dati, ad esempio la manifattura sta andando oggettivamente male. Vedremo, ripeto, la disaggregazione, cioè vedremo il contributo delle scorte, la spesa pubblica, gli investimenti e quant'altro. Però tutta questa famosa leggenda metropolitana secondo cui l'Italia sarebbe stata isolata, diciamo, dai rallentamenti, si è rivelata quello che è, una leggenda metropolitana. Esatto. Ora però, tra l'altro, un altro dato che è sfuggito, però, cioè, secondo le statistiche della Banca d'Italia sui prestiti, a dicembre il tendenziale, cioè dicembre 2015 su dicembre 2014, i prestiti alle imprese tornano a contrarsi. Per cui questo già è indicativo di una minore esigenza da parte delle imprese o di condizioni creditizie che stanno progressivamente stringendosi. In tutto ciò, chiaramente, bisogna capire come evolverà il rapporto tra il governo italiano e la Commissione europea. Nel senso, mi ha colpito molto, no? A settembre dell'anno scorso c'era questa presunta crescita, eppure Renzi ha presentato una nota di aggiornamento al DEF e poi tre mesi dopo una bozza di legge di stabilità che era fiscalmente espansiva. Cioè c'è crescita e Renzi vuole un'espansione fiscale, e ci credo, perché deve ficcare sotto il tappeto le clausole di salvaguardia. Adesso, ieri, tra più tutti... Più che ficcare sul tappeto, spostarle sul tappeto l'anno dopo. Poi sì, questo... no, esatto, ma poi il tappeto gli arriva addosso, il problema è che arriva addosso anche a noi. Ieri, invece, Padoan, tra tutte le innumerevoli cose che ha detto questa settimana, ha detto anche che se ci saranno scostamenti dei conti rispetto, diciamo, al rallentamento della congiuntura, l'Italia è pronta di fatto a intervenire, cioè cosa vuol dire? A fare una manovra correttiva. Allora io vorrei richiamare l'attenzione su questa schizofrenia del governo italiano, a parte che non sono coerenti neppure tra di loro, no? Ma però, allora, c'è crescita, l'Italia vuole più deficit, cioè vuole un'espansione fiscale. Se la crescita rallenta, Padoan si dice pronto a fare che cosa? Una stretta. Quindi, cioè, è una politica economica fiscale, nella fattispecie, prociclica. No, ma poi è incoerente con quello che lui aveva da poco svelato, che era già chiaro nei suoi documenti come apporto fondamentalmente più rilevante al suo governo. Cioè, dice, la pensa come quelli di secular stagnation, secular stagnation. Se la pensi così, non puoi dire a questo punto di fronte al rallentamento e allora stringo. No? Esatto. Quindi lui esatto. Si sta contraddicendo proprio con se stesso, no, devo dire, il ministro Padoan. Ma sai qual è il motivo vero? Il motivo vero è molto semplice. Allora... noi dobbiamo capire esattamente che cosa vuole fare Renzi. Non lo sapremo. Non lo sa neanche Renzi. Cioè, non lo so, questo voglio non dire, lo so. No, allora, Renzi si accontenta di questo 0,2% in più di deficit PIL e poi si mette tranquillo per un paio di settimane? No. Oppure no? Ma se no, e se il rallentamento accentua, cioè se si aprono nuovi buchi di deficit PIL... bisogna capire cosa chiederà l'Unione Europea all'Italia e come risponderà Renzi. Io credo che su questo passaggio di Francesco Bei, saluti Francesco se in ascolto, sono molto lieto di quanti anni e quanta carriera hai fatto rispetto a quando ti abbiamo preso a Libera, Francesco Bei, che è passato da Repubblica alla Stampa, e la risposta che Francesco Bei ha tirato fuori come primo regalo al suo nuovo giornale, e cioè far dire esplicitamente a Renzi quello che ha in mente, è una risposta chiara che risponde al tuo quesito, perché Renzi ha detto: queste clausole di salvaguardia fiscale spostate sul 2017 non ne voglio più sentir parlare, basta, vanno abolite senza copertura, che significa almeno 5% del deficit 2017, per essere chiari, perché c'è più di un punto di PIL sommato nel 2016, 2017 e 2018 di clausole fiscali. Credo che questa sia la vera spiegazione di tutti gli attacchi all'Unione Europea da novembre in avanti, cioè il fatto che le clausole di salvaguardia vanno abolite, perché altrimenti il governo non ha nessun margine. Allora ti dico un'altra, come evolve questa cosa. Tu vuoi questo aumento di deficit gratis et amore dei, allora devi essere coerente fino in fondo, perché siamo sicuri che la BCE di fronte ad una cosa del genere continua a comprare? Cioè noi andiamo verso una crisi istituzionale e di governance europea, l'ennesima. Ma a quel punto, se veramente molliamo gli ormeggi, cioè Renzi ha solamente una cosa da dire, perché a quel punto l'Italia verrà martellata peggio del Portogallo questa settimana. Renzi deve prendere la decisione e portare l'Italia fuori dalla moneta unica, perché non si può stare dentro la governance europea, spararle addosso quotidianamente e poi però volere la copertura della BCE. Perché non sto auspicando, attenzione, a tutti i neuro, diciamo, in ascolto, non sto auspicando che l'Italia lasci la moneta unica, cioè quello sono agnostico, non me ne può fregar di meno, so solo che da un evento del genere farei un sacco di soldi. Farei un sacco di soldi se l'Italia tentasse di uscire dalla moneta unica, questo lo dico da tempi non sospetti. Però se Renzi pensa di fare il 3, il 3,5, il 4, il 5% di deficit PIL e di tenersi addosso il mantello protettivo della BCE, vuol dire che abbiamo un rapporto con la realtà che è abbastanza drammatico. Ci penserebbero le società di rating, penso che le agenzie ci declasserebbero. Tu cosa dici? Noi abbiamo la procura di Trani, attenzione. Ah, sì, sicuramente, però comunque, appunto, Draghi non può comprarci. Non dimenticate che il casino è tale a livello internazionale, però, perché il casino è un casino vero che ha messo nell'angolo, per così dire, il problema del flusso di capitali dalla Cina e della stima di svalutazione di cui ha bisogno davvero la valuta cinese rispetto alla transizione della sua economia, mettiamola così, all'enormità dei suoi problemi risolti. Uno, due, il fatto che la Fed deve fare marcia indietro rispetto alla sua politica monetaria, perché quello che serve ai mercati è un dollaro debole per far salire il petrolio, non un dollaro forte apprezzando i tassi di interesse. e il rimbalzo che c'è sulla finanza americana dalla crisi dei paesi emergenti produttori di oil, di commodities, e tutto questo crea uno scenario tale per cui nel governo italiano pensano che il casino che ha aperto in Europa, le proposte dei due governatori francesi e tedeschi, di un ministro delle finanze europeo, che vengono lette in maniera radicalmente opposta, perché alla tedesca significherebbe un ministro che diminuisce i margini della discrezionalità degli eurodeboli. Noi la pensiamo invece, come ha scritto Renzi in settimana a Repubblica, solo se è un ministro che serve ad aumentare i margini di discrezionalità. Quindi il casino è tale che l'Italia di Renzi può pensare che nessuno ci metta la corda, tanto i casini sono di tali proporzioni, di un ordine di fattore così più elevato, che tanto vale approfittarne e fare più deficit. Il punto, come dice Mario, però, è che questa cosa noi la facevamo sia dicendo prima che le cose erano, che i problemi erano finiti e che i venti della ripresa gonfiavano le vele, e a maggior ragione diciamo adesso che invece diciamo no, e le nostre vele sono fiacche, quindi facciamo la stessa cosa. Caro Alberto, che dici tu? Dico che il governo sta perdendo un dialogo con la Commissione Europea, l'Unione Europea, che invece era indispensabile per muoversi in tandem. L'Italia ha disperatamente bisogno di un'Europa collaborativa per venire fuori da queste secche. Mi sembra che invece, per tenere botta sul fronte interno dei populisti, in termini di comunicazione, hai visto, no? Che il buon Renzi ha accelerato su un tono di forte contrasto, e non mi sembra che però qualcuno, a parte Schulz, in queste ultime ore gli stia dando sponda a livello politico della Commissione Europea. In compenso il fronte tedesco, olandese ha risposto picche su tutto, quindi... No, ma anche il governatore della Banca di Francia firmando con Weltman della Bundesbank è un ceffone in faccia all'Italia. E lì però c'è un tema importante che dobbiamo dire, che anticipa il peso dei titoli di Stato e l'implicita evoluzione dei titoli di Stato nei prossimi 5 anni, quando sarà completata l'Unione Bancaria Europea e quando quindi quel cordone ombelicale tra banche e titoli di Stato sarà progressivamente rescisso, e beh, è chiaro che a quel punto i titoli di Stato saranno da soli a camminare sul mercato, e bisogna vedere che cosa succede, perché ovviamente a quel punto il rischio di un intervento sul debito pubblico italiano è tutt'altro che da scartare. Vedere per credere che questo venga davvero. Io ho un suggerimento che è in ascolto. Io stanotte ho divorato un ebook che è uscito ieri, lo trovate sul sito di Vox, quindi www.vox.eu, ed è un aggiornamento di un ebook che nel novembre scorso era stato curato tra gli altri da Francesco Giavazzi, con una ventina di economisti europei. Nel novembre scorso si trattò di un ebook che era il tentativo di una lettura comune di quello che stava avvenendo nell'euroarea, nell'area dell'euro, e qui invece si individuano in 4 capitoli, ogni capitolo diviso in 2 parti, i problemi fondamentali da affrontare con misure nuove perché l'euro regga. Si chiama Rebooting Europe, lo trovate sul sito di Vox, si può scaricare liberamente, 249 pagine, mi ha molto colpito, ci sono molti punti su cui sono molto d'accordo, proprio uno di questi è quello di cui stava parlando adesso Carlo Alberto. Bisogna non smontare il bail-in, come tutti dicono oggi, a difesa delle banche e a difesa dello Stato, al contrario bisogna difendere quel vallo che difende, che separa la responsabilità, certo, dei contribuenti dai sanamenti bancari. Bisogna liberare le banche, questo significa abbassare il coefficiente di capitale che può essere impiegato a garanzia del rischio di titolo di debito pubblico nelle banche, la cosa di cui parlava Carlo Alberto, che invece anche questo in Italia, anche solo le 24 ore, dice no, sacro che le banche possano tenere 400 miliardi di titoli di Stato nella loro pancia. Chi ha detto? Perché? Scusa, poi arriviamo a dire, e perché le banche non prestano alle imprese? Bravo. Ma la logica, No, me lo so che ma la logica dove l'avete lasciata? In seconda fila era in rimozione forzata. Non mi far parlare di quello che leggo sul Sole, va. Dopodiché, terza cosa, dopo queste prime due, a tutti quelli che propongono: sì, ma ci vuole un meccanismo di solidarizzazione e di monetizzazione del debito pubblico. Nello studio, in questo Rebooting Europe, ho trovato una riflessione che dice: ci vuole una doppia cosa, allora. Ci vuole un meccanismo, sì, di solidarizzazione, mutualistico per così dire, per una soglia oltre la quale di debito pubblico ci deve scattare questo meccanismo. In cambio i paesi che vi hanno accesso però rinunciano non solo al signoraggio ma a tante altre cose, fino a che questa cosa va avanti. Si fa con dei perpetua, non voglio perdere tempo nei particolari tecnici, ma contemporaneamente fin dal primo giorno si adotta come regola quella che vale per gli stati degli Stati Uniti d'America, cioè da quel giorno in poi non c'è più nessun bailout, salvataggio di debito sovrano. Sappiatelo, perché nessuno vi viene. Insomma, un bel blocchetto di proposte, fuori da chi dice no dal no euro e fuori da chi dice sì dall'euro ma tutto mutualizzato, che è un sogno, che secondo me vale la pena di leggere per i nostri ascoltatori. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta alle 10.35 primi 53 secondi con i compari di Conti da Belva, oltre a Oscar Giannino, Marius Minerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed eccoci qua, capitolo numero uno, dopo aver visto come vanno le cose, capitolo numero uno, l'intervento del governo. Non abbiamo il testo, come sempre, sa Dio quando uscirà, però intanto intervento per decreto sul settore delle 364 banche di credito cooperativo nel nostro paese. I principi affermati dal governo sono la necessità di adesione a un'unica grande holding che per capitale viene formata in realtà dalle stesse banche di credito cooperativo, deve avere un capitale di almeno un miliardo di euro. Il potere di questa holding nei confronti delle BCC che vi aderiscono con una formula che si chiama contratto di coesione dipendono molto in realtà da come questo contratto verrà scritto, cioè hanno a che vedere con la buona gestione della banca, hanno a che vedere con il rafforzamento complessivo dei requisiti patrimoniali, cioè dovrebbe essere un vero e proprio grande gruppo bancario. Un grande gruppo bancario italiano significherebbe il terzo vero grande gruppo bancario italiano dopo Intesa e dopo Unicredit. Stiamo parlando dell'8% del totale degli attivi del sistema bancario italiano, e da questo punto di vista però non è chiaro questa holding che governance davvero avrà, visto che sono le stesse banche che la capitalizzano a farne parte, a essere in qualche maniera anche dei soggetti regolati da parte delle holding. E poi soprattutto nel decreto è uscita questa novità dopo un anno in cui c'era stato un confronto tra chi rappresenta le banche di credito cooperativo, tra la Banca d'Italia e il governo. È sembrato che alla fine il decreto uscisse con Banca d'Italia che, insomma, ufficiosamente ha detto a tutti noi il testo che entra e che esce in Consiglio dei Ministri non lo conosciamo. Questo ufficiosamente Banca d'Italia così ci ha detto. E si è capito infatti da l'uscita dei comunicati divergenti nella sera del Consiglio dei Ministri che le cose non erano proprio così come un mare senza increspature, perché sul numero delle holding, una sola nazionale oppure più, e sul meccanismo attraverso il quale poi alla fine è stato deciso dal governo di consentire la non partecipazione alla holding, c'è una deroga per una soglia riserve almeno superiore ai 200 milioni. Ricordo a tutti che nelle banche di credito cooperativo il 70% degli utili non è sottoposto a tassazione, e a quel punto, essendo non sottoposto a tassazione, va a costituire queste riserve indivisibili, si chiamano così, che non sono tassati perché sono proprio il frutto figlio della specificità dell'impresa cooperativa. Adesso diventano una soglia, se superano i 200 milioni, che consente invece alle BCC che sono, non si sa se solo individualmente o se si fondono nel frattempo, la superano comunque, a quel punto possono partecipare alla holding, dovranno decidere di mutare la propria forma giuridica in SPA o in popolare, però questo ha scatenato un mucchio di confusione. Primo, se quelle sono state esentate fiscalmente, perché consentire l'esenzione alla holding a chi ha queste riserve indivisibili superiori ai 200 milioni, ma facendogliele tassare solo con un riscatto del 20%, appare un grande regalo, tanto per dirne uno, è uno snaturamento della natura stessa che ha creato e costituito l'eccezionalità della non tassazione, proprio delle riserve indivisibili che nascono dalla specificità della banca cooperativa. E in questo caso si fa un regalo. A chi si fa un regalo? E si è scatenato il casino, perché sto per la soglia dei 200, si trovano in teoria un po' di una quindicina di istituti, secondo i conti dei bilanci certificati Mediobanca 2014, dei quali ci sono 4-5 tra Emilia e Toscana, e soprattutto in Toscana, che interessano molti ad alcuni esponenti del PD. E quindi, sul giornale di oggi, trovato sul Corriere della Sera, sono partiti dissensi anche all'interno del governo. Ma detto tutto questo, noi dobbiamo tentare di capire meglio questo schema. È uno schema che rafforza davvero una parte fondamentale del sistema bancario italiano? È uno schema con problemi ancora aperti? Perché Banca Italia sembra apparentemente fredda ancora di fronte a tutto quello che non c'è da chiarire? Caro Alberto, tu cosa ci hai capito? Ma io ho capito che il modello di governance è un modello un po' incestuoso, quindi in primis non mi convince questa cosa per cui a partecipare alla holding devono essere gli stessi che poi sono ad essa controllata. Questa divisione dei compiti non favorisce la trasparenza e secondo me non verrà perfettamente recepita dal regolatore europeo, che ricordiamo con banche di queste dimensioni sarà assolutamente il referente. Secondariamente, questo meccanismo di opt-out, cioè di uscita libera, non è per niente chiaro né negli sistemi di incentivi né nel modello che fa fuoriuscire. Quindi io sono convinto che questa cosa non sia una soluzione chiara, e tra l'altro con 18 mesi di tempo e invece un'urgenza di intervenire su banche, abbiamo una quarantina di banche che hanno crediti deteriorati sopra il 20%, Oscar, abbiamo situazioni in cui oggettivamente gli interventi da prendere sono rapidissimi, tu cosa vai a fare? Vai a penalizzare le banche di credito cooperativo che hanno performato meglio, perché gli stai di fatto chiedendo di mutualizzare la situazione di default o comunque di difficoltà che hanno le loro altre banche. Questo è un altro tema, francamente, dal mio punto di vista tutt'altro che orientato al mercato. Quindi diciamo molto pasticciato. Molto pasticciato, con tanti elementi di fronte a un quadro, quello sui mercati finanziari che abbiamo ricordato prima, l'esposizione di tutto il settore bancario che è diventato il punto su cui si è accesa la sirena rossa da settimana a settimana. Forse un po' di chiarezza in più era dovuta, appunto, numero uno, anche perché è un anno che si parla di questa cosa, è un anno in cui si è avviato un confronto, perché un anno fa, quando il governo intervenne sulle 10 maggiori popolari, voleva farlo anche per le BCC, fu frenato, e da un anno, e per un anno poi si è confrontato con la Banca d'Italia, ma anche con la rappresentanza delle BCC. Abbiamo con noi, per capire meglio che cosa abbiano capito loro e come la pensino loro, appunto, il presidente di Federcasse, Alessandro Azzi, e che io ringrazio di aver accettato di venire qui a parlare, anche perché è un po' delicato, perché ricordiamolo ancora una volta, i testi noi non li conosciamo. Buongiorno e grazie, presidente. Grazie a voi, buongiorno e buon lavoro. Allora, noi ha capito, siamo preoccupati solo perché non vorremmo che dalla confusione nascessero i presupposti per un'ulteriore esposizione di un altro pezzo del settore bancario al dubbio, no? Che grava già fin troppo sui titoli bancari italiani e sulla solidità dei conti delle banche italiane. Lei come interpreta questo modo un po' singolare in cui siamo arrivati a questo annuncio di decreto? Ma allora io anzitutto credo di aver capito che l'impianto della proposta di autoriforma che abbiamo avanzato sia stato accolto, ed è un impianto sul quale abbiamo lavorato insieme a Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia per lunghi mesi. La risposta, cioè il provvedimento, si è fatto attendere. Abbiamo tuttavia capito dalla conferenza stampa di mezzanotte tra mercoledì e giovedì che ci sarebbero stati interventi modificativi sui quali abbiamo delle perplessità. Quindi buona cosa se, come sembra, l'impianto è stato accolto. Avrei delle osservazioni riguardo in particolare a ciò che Carnevale Maffè ha detto poc'anzi, se c'è il tempo. Lo so, caro Presidente, lo so, su questo c'è una differenza di interpretazione. Ma le sentiamo, le sue osservazioni le sentiamo, Presidente, siamo qua per questo. Allora, le osservazioni sono queste. Qui noi abbiamo cercato di costruire e faremo un modello di gruppo bancario del tutto originale, gruppo bancario cooperativo, infatti, che è anzitutto destinato a mantenere alle singole banche di credito cooperativo le caratteristiche di banche del territorio, banche di comunità a mutualità prevalente. Dovranno aderire ad una capogruppo in forma di società per azioni, e questa capogruppo necessariamente avrà dei rappresentanti che saranno nominati dalle stesse banche di credito cooperativo in relazione al capitale che esse conferiranno alla capogruppo. Quindi credo che sia una cosa perfettamente normale che il controllo, la direzione e il controllo sulle BCC sia in capo alla capogruppo stessa. La capogruppo avrà poteri di direzione e di coordinamento, le banche di credito cooperativo si legheranno alla capogruppo con un patto di coesione, come è stato già detto, che sarà basato sulla meritevolezza, quindi l'autonomia della BCC permarrà quanto più in relazione a requisiti oggettivi la BCC avrà meritevolezza e viceversa le BCC meno meritevoli in relazione ai requisiti oggettivi avranno maggiori controlli e minori libertà da parte della capogruppo. Questo consentirà di strutturare al meglio un vincolo di solidarietà che già è operativo tra le banche di credito cooperativo e funziona. Tant'è vero che le crisi di banche di credito cooperativo che ci sono state, e d'altro canto in una compagine di 370 soggetti inevitabilmente ce ne sono alcuni con una salute cagionevole, finora sono state tutte risolte con l'intervento di concretere mutualistiche senza chiedere fuori. Questo è un dato naturalmente di fuori. E nello stesso tempo portando le BCC ad intervenire con 230 milioni al concorso, alla risoluzione del delle quattro banche non di credito cooperativo e Etruria più tre, che come sappiamo. Allora questa forma di solidarietà di sistema continuerà a svilupparsi nell'ambito della capogruppo, che rispetto alla situazione attuale in cui certamente le BCC buone e quelle comunque patrimonializzate concorrono al salvataggio delle BCC più in difficoltà, esatto, diciamo. Avrà questa situazione potrà continuare a svilupparsi al meglio, anche perché ci saranno possibilità e poteri di intervento preventivo sulle derive delle criticità che attualmente non ci sono. Quindi lei ci dice, ma questo io lo so che lei ci sta descrivendo la proposta vostra, però nella proposta vostra era e non era un vero gruppo bancario, perché c'è sempre il problema che se il capitale te lo do io e tu devi decidere se non sono più banca, insomma è ovvio che c'è un conflitto di interesse dichiarato. Secondo questa meritevolezza, caro Presidente, non è così di mercato dal mio punto di vista, se la decidete, come dire, tra di voi, no? La meritevolezza viene decisa secondo criteri oggettivi che dovranno venire validati dall'organo di vigilanza. Appunto, non è di mercato, no. La differenza fra l'organo di vigilanza e il mercato è molto chiara, il mercato decide lui e invece altrimenti decidete in voi. In ogni caso io invito tutti quanti, finché noi non, il testo non lo conosciamo del governo, certo, questa è la proposta. Certo. Io la domanda che devo fare ad Azzi, però la risposta dopo l'interruzione, è questa soglia dei 200 milioni di riserve disponibili sopra la quale si apre la facoltà di non aderire, di smarcarsi alla diciamo Holding. Così, questa no? Per voi è una sorpresa, è una soglia condivisa, sbaglia chi pensa male, perché devo dire che qui si parla di opinioni contrarie di componenti del governo, non solo di componenti politiche, scelta civica, di componenti di ministri come Delrio, se uno oggi apre il Corriere della Sera trova delle obiezioni, Bersani ha sparato a zero ieri su questa roba, lasciando chiaramente intendere che c'è un problema nel PD che fa riferimento a correnti del PD tra Emilia Romagna e Toscana, quindi un problema di fronte al quale insomma, non dovrebbe centrare nulla sulla delicatezza delle questioni bancarie di cui stiamo parlando, però chiedo ad Azzi su questo di darci la sua impressione, perché è un tema molto delicato, perché su questo Azzi lo sa, dopo tanti anni di vita associativa, se si impiamma il Parlamento su questo si smarrisce quel po' di attenzione possibile sui nodi veri da fare di una scelta bancaria di questo rilievo e si finisce poi a parlare solo di scontro politico. Tra un minuto la risposta di Azzi. Della Belva. Eccoci qui tornati in studio, 10:49 primi 43 secondi dagli studi di Milano della 24. I compagni dei Conti La Belva, oltre a Oscar, Mario, Carlo Alberto, ed è con noi anche Alessandro Azzi, il presidente di Federcas, con cui stiamo tentando di capire, non avendo il testo in mano, quali più rilevanti questioni si aprono con l'intervento annunciato per decreto dal governo sulle BCC. 370 quasi soggetti in Italia, ben radicati sul territorio, per i quali si prescrive l'adesione a una holding unica, di cui abbiamo tentato di spiegare alcuni particolari, con l'eccezione però per coloro che hanno almeno 200 milioni di riserve indivisibili, che con un riscatto fiscale pari all'aliquota del 20% sono liberi. Che è un bello sconto, vogliamo dire, un gran bello sconto. È uno scontone, ecco. È una contraddizione rispetto al fatto che quelle riserve sono lì non tassate, proprio rispetto della natura cooperativa della banca, e che ha immediatamente fatto infiammare però i toni politici. Bersani spara a zero, Del Rio obiettato, pare, in Consiglio dei Ministri, da fuori la stessa Banca d'Italia su questo ha detto bah. E invece voi, anzi Federcasse, lo sapevate? Che cosa pensate che ci sia? Sia una cosa giusta oppure che ci sia dietro tutta sta politica che sembra dalle prime reazioni? Allora, per noi è stata una sorpresa. Nella lunga fase di definizione della proposta di concerto con Banca d'Italia e col Ministero, questa soluzione non era mai stata prospettata. Detto questo, però, vorrei fare una premessa prima di dare la risposta circa il giudizio. Anzitutto, il gruppo che noi faremo dovrà essere una casa accogliente per tutte le banche di credito cooperativo, per quelle che ci dovranno rimanere, in quanto se passerà la conversione nei termini del decreto, in quanto hanno capitale inferiore, un patrimonio inferiore ai 200 milioni, e anche quelle che potrebbero trasformarsi. Perché trasformarsi in società per azioni con mezzi propri di poco superiori ai 200 milioni e avventurarsi in un oceano procelloso come quello che stiamo tutti attraversando non è certo una cosa particolarmente ragionevole e adeguata ai tempi. Inciso ai radioascoltatori, la maggior parte dei 15 soggetti bilanci 2014 che sono oltre i 200 milioni di capitale, secondo appunto la riclassificazione dei bilanci fatta da RS Mediobanca, sono in realtà, come sta dicendo il presidente della Federcasse, di poco sopra i 200 milioni, cioè tranne la BCC di Roma e sostanzialmente un'altra, tutto il resto è lì vicina. Che ci si possa sentire così sicuri con l'oceano a forza 8 a dire ma sì, io divento spapo, ma veramente, comunque non solo, ma quindi noi cerchiamo di costruire una struttura originale, gruppo bancario cooperativo, in cui le BCC avranno interesse a rimanere perché consentirà loro di continuare a svolgere la missione e nello stesso tempo sentirsi rafforzate e protette. La prima risposta al riguardo è stata proprio sui giornali di ieri da parte del direttore generale della più grande, di gran lunga più grande banca di credito cooperativo italiana, quella forse che per mezzi propri potrebbe davvero cercare di avviarsi in un percorso in autonomia, la BCC di Roma, direttore della BCC di Roma, che ha dichiarato che non hanno nessuna intenzione di uscire dal progetto comune del gruppo bancario cooperativo. Il che però fa conferma, per chi volesse pensare male, i pensieri di Bersani e degli altri, che evidentemente altri, cioè i toscani, quelli che vengono individuati come gli amici del Premier, ma queste sono tutte illazioni che non chiedo certo a lei opinioni o di certificare come presidente delle Federcasse, però questo potrebbe forse confermare che qualche problema c'è. Comunque lei ci sta dicendo quella soglia per noi è una novità, non la consideriamo molto utile. La soglia è una novità. Noi siamo fiduciosi che se rimarrà così, cercheremo di modificare il decreto, ma se rimarrà così, la gran parte delle 14 BTC che sembrerebbero essere sopra soglia rimarranno. Abbiamo un giudizio non positivo di una soluzione di questo genere nei limiti di ciò che possiamo interpretare, certo, dalla conferenza stampa, esatto, perché nulla il testo abbiamo non detto. Ce l'abbiamo. Quali sono le obiezioni? Sì. Beh, le obiezioni sono anzitutto quella di una disparità ingiustificata di trattamento e di una iniquità anche dal punto di vista costituzionale. Ora, perché? L'articolo 45 della Costituzione, lo sapete meglio di me, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Questo significa che le cooperative di ogni genere a mutualità prevalente, le cooperative a mutualità hanno avuto delle agevolazioni, esatto, per l'accumulo dei patrimoni, esatto, nel senso che gli utili che facevano, se li facevano, venivano tassati meno rispetto alla tassazione ordinaria delle altre società. Nel tempo, quindi, di generazione in generazione, le banche, le cooperative e anche le cooperative bancarie hanno acquisito dei patrimoni che non sono divisibili tra i soci, tant'è vero che non li chiamiamo neanche azionisti, li chiamiamo soci. Quando c'è un passaggio, una cessione, un'uscita, si va al valore nominale, che è sempre molto modesto, perché la logica non è quella del capital gain. Allora, pensare che gli attuali soci proprietari della banca, che si è formata di generazione in generazione, adesso possono fare un'altra scelta pagando solo il 20%, lo dico per lei, un bel condono, posso dire un condono intergenerazionale, è una bella roba storia. Su cui io do onore e do atto e rendo onore al presidente Federcasse, che dice che porrebbe dei problemi inevitabili di impugnative, inevitabili, perché è incostituzionale, è incoerente rispetto a tutte le leggi. Quindi resta il problema di capire perché il governo abbia deciso questo. Torniamo dopo il giornale radio. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ma pensa un po', ragazzi, siamo in diretta, non continuate a proferire delle parole che il nostro ascoltatore, se ascolta, poi ci chiede che ci calcino tutti quanti. Allora, siamo tornati qui con i compagni Conti della Diretta, Conti della Belva in diretta, era una crasi. 11, 6 primi e 11 secondi per chi di voi non sta fermo, 11, fermo. 6 abbiamo primi. un SMS di sostanza. Caro Giannino, la copiata tra lei e Bersani è perfetta, certo, per criticare tutto ciò che fa il governo Renzi, a prescindere, anche senza conoscere il testo della norma. Certo. Se così pensa di essere credibile, io ne sono dubbioso. Quindi sei diventato compare di Bersani. Il problema è che, caro ascoltatore, noi il testo non ce l'abbiamo, ma quando, a sorpresa da tutti coloro che lo hanno premasticato, noi no, da un anno, salta fuori la soglia per non partecipare alla holding, e la soglia individua, se uno va a vedere quali banche stanno solo per questa soglia, ci sono alcune banche toscane che sono di amici degli amici. Ecco, perché stiamo parlando di un mondo cooperativo in cui, come è noto, la sinistra non è proprio lontana e aliena. Allora, qui si pone un problema politico. Di questo è il nostro, se sfogliate i giornali di oggi trovate le dichiarazioni su questo. Ripeto, sorpresa, perché Banca Italia dice, ma quella soglia perché 200? Banca Italia ufficiosamente. Però mi fai fare una piccola puntura di spillo al presidente Azzi, che spero che sia ancora in linea. No, perché lui ha appena parlato di questi 200 milioni che effettivamente sono una soglia a rischio nel mondo procelloso del sistema bancario soglia europeo. Di capitale, soglia di capitale. Però mi domando come mai allora ha tollerato per tutti questi anni che 360 banche di credito cooperativo avessero tranquillamente autonomia bancaria con soglie di capitale che sono una frazione di quella cifra, cioè 5, 10, 15 milioni. Ricordiamoci che nel mondo attuale, con la legge vigente fino ad oggi, la soglia minima di capitale per poter essere BCC è appunto quella di 5. Quindi improvvisamente o un miliardo o nulla. No, io sono d'accordo che per fare banca oggi serva tantissimo capitale, esatto, e servono tecnologie e modelli completamente diversi da quelle, esatto, attuali. Quindi ci ho detto, lo spirito del credito cooperativo è uno spirito di fondamentale importanza, ma va coniugato con modelli operativi e modelli tecnologici di una generazione oltre a quella. E quindi modelli di autonomia locale fondamentalmente a servizio della politica, francamente, sono incomprensibili, secondo me inaccettabili in un quadro europeo. Ti risponderebbe appunto che la holding, prima proposta da loro, serve ad alzare di molto quella sua dimensione del capitale, e che avrebbe, però qui dipende da come si scrivono le regole, potere di intervento proprio per chi non è più in condizioni. Ma allora, questa meritevolezza di cui parla il nostro presidente Azzi, che cos'è? Fammi capire. Qui, oltre che di credito cooperativo, stiamo parlando di debito cooperativo a questo punto. Certo. Per cui le più piccole, le più fragili, in realtà vengono salvate dalle migliori. Ecco di nuovo la meritevolezza. Chi meriterebbe di andare avanti perché ha gestito bene, in realtà viene penalizzato ancora una volta per salvare chi ha gestito peggio. Mi sembra un bel segnale da dare al sistema bancario europeo. Ancora una volta gli italiani, come dire, salvano i peggiori gestori delle pecore nere. Ricordiamoci che Mediobanca a dirci che sul totale di quelle 370, quasi una ventina hanno crediti deteriorati superiori al 20% del capitale, quindi sono in condizione di dover essere, tra virgolette, molto attentamente seguite, perché non sono più in condizione di raddrizzarli i conti e sono a rischio di solvibilità. Allora sentiamo Domenico da Cesena che ci chiama. Buongiorno dottor Giannino, a lei e ai suoi colleghi lì che vi ascolto molto volentieri. Grazie. Devo dire questo, si parla di banche, fallimento di banche, io ne ho approfittato, sono in macchina perché a caso c'è tutta la documentazione. Qui a Cesena, esattamente nel 2015, è stata dichiarata fallita una BRC, cioè la BRC, Banca Romagna Cooperativa, è stata commissariata dalla Banca d'Italia dal 2013 al 2015. Quando hanno scoperto nelle ultime due gestioni, dal 2008 al 2013, un buco di 92 milioni di euro, dove sono stati truffati 8.000 soci, io compreso, per 16 milioni di euro, cosa ha fatto? Abbiamo anche cercato attraverso l'associazione ADOC di intervenire a Federcasse, voglio dire Emilia Romagna, risposta è zero. Se non che, subentrata questa banca, noi abbiamo perso tutto, adesso abbiamo fatto degli esposti anche alla Procura della Repubblica di Forlì. Sappiamo però i tempi della giustizia quanto sono lunghi, però noi, voglio dire, ormai abbiamo perso tutte le speranze, però quello che a noi dispiace è che nessuno ne parla. Esattamente. La BRC, Banca Romagna Cooperativa di Cesena, 92 milioni. Dal punto di vista del fenomeno mediatico, lei ha perfettamente ragione. Il problema è che quando queste cose avvenivano nell'ambito del circuito del credito cooperativo, restavano solo nella informazione locale. La differenza, il cambio di attenzione dei giornali nazionali, è venuto con la vicenda delle quattro banche risolte di novembre scorso. Prima neanche l'elenco stavano diventando quasi 20, delle banche commissariate localmente della Banca d'Italia era un tema che scaldava i giornali della comunicazione, Mario. E però, così... Sì, se ricordo bene il caso di Banca Romagna Cooperativa, chiaramente gli azionisti, i soci cooperatori azionisti sono stati spazzati via, però il fondo di garanzia delle banche di credito cooperativo è intervenuto su base spontanea e ha rimborsato le obbligazioni subordinate emesse dalla banca. Beh, è un rimborso, è diciamo un indennizzo, ecco, nel senso che ha fondamentalmente dato un atto di generosità, non possiamo parlare di rimborso. Però è stato tutelato il valore nominale. Sì, senza dubbio. Che questa era l'idea che poi voleva essere attuata anche con le quattro esattamente. Banche. Esattamente. Ma è un atto di liberalità, non possiamo parlare di rimborso. Sì, però è venuta, lo diciamo solo per ricordare a chi è in ascolto. Ma infatti, perché l'ascoltatore immagino che si lamentasse della sua condizione di socio. Quindi quote. Come tale le sue quote sono state spazzate via. Obbligazionisti subordinati di Banca Romagna Cooperativa sono stati salvati da questa iniziativa, diciamo, di stabilizzazione del comparto del fondo di garanzia delle BCC, che era quello che si tentava di fare. E però non si è riusciti non a fare con le altre quattro banche. Nel grande casino di dire che poi è stata l'Europa che ci ha imposto il diktat. E poi vi abbiamo spiegato che non è stato affatto così. Laura, dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io non sento più parlare dei 300 milioni di euro che il governo ha dato a queste quattro banche accusate, tra cui la Banca Etruria, che ieri ho sentito che è stata dichiarata fallita, anzi in odore di bancarotta fraudolenta. Sì. Io voglio sapere, una parola grossa ormai da noi, che fine hanno fatto questi 300 milioni che dovevano salvare queste quattro banche? A che cosa sono serviti e dove sono finiti? Grazie. Lei sta parlando, perdoni, ci sono qui dobbiamo prego. Capirci perché con i 300 milioni ci possono... Lei sta parlando della dotazione agevolata che è stata data per fare la Bad Bank oppure B. Allora, aspetti, rispondi. Oppure sta parlando della cifra su cui era atteso l'intervento dal Consiglio dei Ministri per i criteri di ristoro a chi ci ha rimesso nelle quattro banche risolte e che invece non sono entrati nei provvedimenti assunti dal Consiglio dei Ministri perché il Quirinale ha detto al governo: guardate, agite coerentemente al rispetto delle fonti giuridiche, fate un decreto legislativo perché avete già posto le premesse per fare il decreto legislativo spiegando i criteri con cui verranno individuati coloro ammessi al ristoro. No, io mi riferivo alla prima ipotesi che sollevò tutte le polemiche riguardo alla ministra Boschi che aveva avuto il padre nella banca, non mi ricordo in quali anni, ecco, quindi tutta l'altra polemica, non per salvare i risparmiatori. Beh, a oggi la distinzione che è avvenuta tra le nuove banche che mantengono il nome e il veicolo in cui sono sommate i crediti deteriorati va avanti, vedremo che cosa avverrà del meccanismo di cessione. Da questo punto di vista, lei conosce la posizione del governo? La posizione del governo è che anche quando, e credo che oramai ci siamo con le decisioni assunte questa settimana, arriverà un pressoché obbligatorio avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta a Papà della Boschi, il governo dirà che non c'è nessun problema da questo punto di vista. No, non credo che voi, Mario e Carobetto, vi aspettiate particolari sussulti da questo punto di vista. No. Assolutamente. Ecco, andrà tutto su questo binario, quindi la polemica politica sarà finita, non c'è nessun problema nelle tante decisioni coassunte dal Papà vicepresidente e soprattutto membro del comitato strategico di Banca Etruria, di cui i giornali, grazie all'indagine delle procure, visto che non si fa più lieve la commissione inchiesta parlamentare, state apprendendo che per mesi e anni Banca Etruria che tipo di decisioni si prendevano, che tipo di correlazioni tra parti terze c'era, quanti soldi si davano in amici degli amici, avvocati, consulenti. Però torniamo alla governance, carissimo. Certo, che torniamo alla governance. Le banche non possono autocontrollarsi, le banche sono un'istituzione di fondamentale importanza e più sono separate tra governo e manager, meglio è, almeno sappiamo con chi prendere, almeno chi controlla controlla e chi esegue, altrimenti. Ed è in questo senso la mia obiezione su questa pseudo riforma delle BCC, perché non indirizza quel gravissimo problema che finché noi diamo il potere di veto ai potentati territoriali noi non usciamo da questo impasse, caro Oscar. Questi sono casi di criminalità economica, sì. No? Sui quali più volte la Banca d'Italia, il governatore Visco ha detto che la vigilanza è impotente, sui casi di dove c'è proprio il penale conclamato e manifesto, e io non mi sento di dargli torto, sono stati forse superficiali. Io dissento, te lo dico subito. No, vabbè, però, cioè, allora, facciamo una riflessione che la governance come camicia di forza o come sistema di gioco di regole per limitare i casi di criminalità economica, però, cioè, questi sono casi di criminalità economica. Dopodiché, noi possiamo anche passare il tempo a dire: però le sparcasse in tedeschi hanno dei problemi. Cioè, capisci qual è il problema? Cioè, sono d'accordo con questo, te. Questo è sono il fatto. Con te. Sono meno, diciamo così, assolutorio verso la Banca d'Italia, che negli anni, in molti istituti di credito si è girato dall'altra parte. Ecco, questo sì, io, sì. Avendo scritto innumerevoli volte il perché, per esempio, non credo alla storia ufficiale di documenti ricomparsi poi in casseforti a Siena, non so, ho parlato con troppi protagonisti della vicenda negli anni per dire che Siena, cioè la punta che resta sanguinosa dell'esposizione bancaria agli occhi del mondo, dell'Italia, è dal 2011 che è un problema irrisolto. Sappiamo tutti che è un problema irrisolto, che sono state assunte decisioni per salvare quel che resta della fondazione, facendo rimanere compromessa la banca. Non c'entra mancare di rispetto verso Viola. Io gli do atto, però è una banca che così attualmente nessuno si prende. Dopo 5 anni, mio Dio, il regolatore non può dire proprio non ci posso far nulla. Le nuove linee della vigilanza però vanno in una direzione che per me è molto importante. Sì. Oltre alla governance, fatemi dire, gestionale, amministrativa, c'è una governance informatica, tecnologica, che viene introdotta, che si chiama data governance, che imporrà alle banche europee, se vogliono fare banche in Europa, di essere molto più trasparente, è vero, la qualità dei dati assolutamente leggibile. Questo evita il famoso, come dire, la famosa fuga alla ricerca del faldone chiuso dalla cassaforte, che è stato l'opacità, la simmetria informativa che ha caratterizzato il rapporto fra banca e ispettore. Va bene, ragazzi, comunque, in attesa del testo, noi vi abbiamo segnalato tutti i problemi aperti che restano. Guardate che si continuerà a ballare, perché il problema è mondiale sull'esposizione del settore bancario, che rimbalza dai problemi aperti su la crisi delle emergenti dei paesi produttori di petrolio e commodities. E quindi purtroppo temo che siamo lontani dal dire abbiamo risolto il problema. Adesso chiudiamo questo capitolo e andiamo al capitolo pagamenti della PA. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati, Carlo Alberto, niente, parla sempre in diretta, racconta i fatti suoi. E poi c'è un'agenzia delle entrate in ascolto, tu stai rivelando dove tieni i danni. Ma non è che sto scherzando, ragazzi, non... pensate al 95% delle cartelle erariali emesse che sono infondate. Cari amici in ascolto di Equità, l'agenzia delle entrate. No, apriamo il capitolo dei pagamenti dello Stato inadempiente dei suoi debiti commerciali alle imprese. Il presidente del Consiglio Renzi disse all'inizio del suo governo queste parole, ricordiamole se riusciamo a mandare in onda. Sì. Che cosa comporta il progetto di autoriforma che le banche di credito cooperativo ci hanno presentato? No, questo è quello sulle banche di credito cooperativo, mentre noi appunto lì gli abbiamo graziato di ricordarci che cosa ci aveva detto il Presidente del Consiglio, mentre ci dovrebbe essere un altro file in cui prendeva l'impegno di pagare tutti i debiti commerciali della PA. Io personalmente devo dire, mentre credo ciecamente agli 85, che voi riusciate entro luglio a pagare fisicamente 50 miliardi, guardate, vado a pellegrinaggio. Se vuole noi diamo la fine dell'estate, che quindi se non vado errato è il 21 settembre, il giorno di San Matteo, se noi abbiamo pagato e sbloccato i debiti della pubblica amministrazione, lei decida dove fare il pellegrinaggio, decida dove vuole farlo. Guardi, in suo omaggio, un santuario vicino Firenze. Monte Senario, che è sopra Firenze, se la fa a piedi da Firenze a Monte Senario. Se noi paghiamo tutti i debiti della pubblica amministrazione, Bruno Vespa fa a piedi Firenze, Monte Senario. Tutti, 50 miliardi. Fate un applauso, che almeno una cosa si salda. E il piccolo problema è che aveva detto che li faceva lui, altrimenti, e credo che li dovrebbe fare. Ma come sempre, invece, queste sono le cose che si dicono in televisione e a cui poi non si dà alcun seguito. Perché, naturalmente, non solo non è avvenuta la cosa, non è avvenuta, capite? Non è avvenuta. O meglio, il Presidente del Consiglio ci direbbe... Giannino, io ho reso possibili per gli anni 2013 e 2014 l'uso di 57 miliardi. E lì si ferma al punto, perché a questo io non posso che dire è vero. Peccato che però poi questa roba non si è tradotta in pagamenti, e questo diventa il problema di cui ci occupiamo oggi, e che nel frattempo il debito torna a risalire oltre i 70 miliardi. E naturalmente, se era al centro dell'agenda dei governi Monti, Letta e all'inizio di Renzi, perché adesso è sparito? Perché adesso che la crescita italiana sta frenando da tre trimestri, come abbiamo visto all'inizio della trasmissione, a questo punto continua a non essere un problema. Prima lo era, lo sarà ancora, no? Ecco. Allora, mentre mandiamo in onda anche, se mi scegliete, le telefonate di chi ci segnala i tempi di pagamento, è con noi per parlarne il coautore di un libro che esce proprio in questi giorni e che a me è piaciuto molto. È un libro un po' per addetti ai lavori, perché è appassionato di pubblica amministrazione italiana ed è in grado quindi di scirupparsi un paio di fitte, paio di centinaia di pagine, in cui però si ricostruisce metodicamente tutto il problema dall'inizio alla fine e si indicano delle possibilità al legislatore attento, voglioso di mettere in regola meglio la pubblica amministrazione, delle soluzioni. Ed è tutto incentrato esattamente su questo problema. A cominciare dalla difficoltà della ricognizione delle cifre, di cui non abbiamo mai saputo con precisione l'ammontare. Marcello Degni, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, allora. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. No, non complimenti. Complimenti a voi che vi siete presi, insomma, la voglia di spiegare a chi vuole. Ci ricorda l'editore e il titolo preciso? L'editore Castelvecchi, e il titolo preciso è Il ritardo nei pagamenti nelle amministrazioni pubbliche. Esatto. Cosa è determinato e cosa si deve fare per pagare nei tempi. È un titolo sempre verde, ma cioè, nel senso che non invecchierà mai, secondo me, è un titolo che possiamo tenere qui per anni. Oh, tra l'altro la novità è che nel corso dei provvedimenti dell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è proprio un punto che in teoria potrebbe servire, se leggete questo libro, a tentare il tempo di risolvere la questione, cioè il superamento della gestione dei processi della spesa pubblica praticamente esclusivamente dal punto di vista della formazione dei fabbisogni con il criterio di competenza. Cosa che invece, ecco, come sapete, la Banca d'Italia guarda la cassa, il Tesoro guarda solo la competenza. Questa cosa crea una diversificazione totale. C'è un primo passo in questa direzione. Però spieghiamo a chi è in ascolto dove si forma il problema, sia sul processo di formazione della spesa. Ho indicato questo, ma è solo uno dei problemi, perché ci sono anche criteri di contabilità dei bilanci che non separano tra loro a seconda dei soggetti che li redigono. E poi invece sull'altro versante, quello della gestione della passibilità, della passività, cioè della gestione del debito commerciale da parte anche qua della pluralità dei soggetti. Vogliamo indicare almeno alcune delle priorità su cui si potrebbe intervenire, che sono nella conclusione del vostro libro e alla fine di ogni capitolo? Sì, dunque, una è stata indicata adesso, sicuramente la riorganizzazione delle procedure di spesa è un fatto molto importante, cioè quando abbiamo iniziato questo lavoro ci siamo subito resi conto che il problema non era tanto ovviamente rilevante avere le risorse per pagare, ma paradossalmente la pubblica amministrazione, anche se ha i soldi in cassa, potrebbe non riuscire a pagare, perché le procedure di spesa sono complicate. Cioè se un comune ordina un bene, questo bene arriva, prima di essere pagato, a parte la disponibilità finanziaria per pagare, ci deve essere una verifica della fornitura che è stata fatta, una determina di liquidazione, e poi è saltata la linea. No, sentiamo, sì. Insomma, tutta una procedura complessa che deve essere semplificata, può essere semplificata. C'è un processo in corso, esiste un processo chiamato armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe portare dalla contabilità finanziaria, quella appunto basata sulla competenza, alla contabilità economica, quella basata su costi e ricavi, per semplificare. E questo ovviamente, una volta che sarà andato a regime, darà un grosso impulso ad una accelerazione dei pagamenti. Però questo è soltanto uno dei problemi. Voi smontate un po' uno dei temi ricorrenti che verrebbe indicato da molti capi di amministrazione locali, regioni e comuni, cioè che davvero i mancati pagamenti, anche sui 57 miliardi 2013-2014 in teoria stanziati, di cui poi si capisce che poco più di una trentina sono stati davvero utilizzati per i pagamenti, però di solito l'argomento è dire i patti di stabilità interni, voi su questo dite abbiamo fatto un riscontro, ma non è questo certo uno dei problemi maggiori, è vero? Sì, è vero, il patto di stabilità interno è stato un vincolo per le amministrazioni virtuose, cioè i comuni efficienti che avevano soldi in tesoreria che però non potevano utilizzare, non potevano riallocare nelle poste rispetto a quelle impegnate per competenza, appunto. Esatto, perché siccome il patto incide anche sulla cassa, io mi trovavo nella situazione paradossale, comune virtuoso, di avere i soldi in cassa e non poter pagare i fornitori perché il vincolo del patto di stabilità. Nel momento in cui le norme recenti hanno allentato questo vincolo, per questi è bastato premere un bottone e hanno subito effettuato i pagamenti che dovevano effettuare, perché avevano le risorse. Il patto di stabilità è un vincolo molto meno rilevante per la massa delle amministrazioni che sono in difficoltà finanziaria, che poi sono quelle in cui si concentra la massa più importante dei debiti, dei pagamenti arretrati. Cosa che spiega perché poi la massa più rilevante sia nella sanità, eccetera, nel mezzogiorno, esatto, nel centro-sud. E per questi il patto di stabilità interno non è molto rilevante, perché il problema non hanno disponibilità in tesoreria che vengono frenate dal patto di stabilità interno, hanno una situazione amministrativa debitoria particolarmente critica, per cui non riescono, che si scarica sui pagamenti, perché è chiaro che il pagamento ritardato consente di aumentare la disponibilità finanziaria dell'ente, no? Certo. Quindi è la prima cosa. Però Marcello, non c'è un po' di contraddizione in uno Stato che vuole spendere di più ma non vuole pagare, però vuole spendere ma senza pagare? Esatto, infatti se si vedono i grafichetti che abbiamo messo nel libro, si vede che questa massa finanziaria che veniva richiamata, che è stata introdotta nel sistema, abbiamo praticamente ottenuto dall'Unione Europea la possibilità di effettuare 40 miliardi di euro di debito pubblico supplementare, no? Dopo la chiusura della procedura di infrazione, per poter proprio fronteggiare questo ritardo dei pagamenti, ha determinato una riduzione dello stock, però la riduzione dello stock non ha inciso sul dato strutturale. Il rischio qual è? È che tra pagamenti fisiologici, perché ovviamente ci sono dei tempi fisiologici di pagamento, e debito accumulato, rimanga sempre quel gap intorno ai 50 miliardi che non si riesce, che per comprimerlo non c'è bisogno tanto di risorse finanziarie aggiuntive quanto di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Oh, noi ricordiamo che se facciamo nelle graduatorie comparate, per esempio voi citate il caso di una multinazionale quotata che sta esattamente nel credit risk management e che quindi fa una graduatoria comparata dei tempi di pagamento, cioè affidabile anche per il tipo di mestiere che fa questa impresa, perché ce ne sono molte di graduatorie che vengono fatti da centri studio così, o da categorie che sono secondo me molto criticabili dal punto di vista dell'apparato statistico sulla cui base poi arrivano le conclusioni che danno impasto ai giornali che ci fanno i titoli, ma questo è un problema che riguarda l'informazione. Però insomma, se andiamo a vedere, noi siamo oramai da anni e anni e anni come media su più di 3 punti di PIL di stock che buca di molto i tempi previsti dalle norme europee per i pagamenti rispetto a una media di paesi che stanno o poco sotto o poco sopra l'1% del PIL. Ecco, cioè l'ordine di grandezza fa capire che qui c'è un problema che poi pesa come sulla possibilità delle imprese italiane fornitrici, che già, ripeto, si sono andate incontro a un drenaggio di 7-8 miliardi di euro nel corso del 2015 per via della reverse charge, della modifica della disciplina IVA, che a questo punto le vede private di liquidità su cui contavano fino all'anno prima. Per di più ti becchi 3 punti di PIL di stock medio di ritardo di pagamento, è chiaro che a quel punto vai a fondo. Un minuto, torniamo con le vostre telefonate, sempre con Marcello Degni, perché tentiamo di capire anche sulla gestione del debito, della passività, quanto siamo lontani nell'amministrazione pubblica da dei trasparenti criteri di certificabilità, di cessione a terzi magari, eccetera eccetera. Non si può fare semplicemente perché la contabilità è fatta col piffero, non è fatta con criteri di mercato e quindi poco è certificabile, come evidente dal fatto che è stato reso possibile a chi avesse un credito certificabile datelo allo sconto su una piattaforma pubblica, ne è emerso poco, perché poco di quel credito in realtà è fatto dagli enti pubblici secondo questi criteri. Questo tanto per chi vi dice che poi lo Stato, ci vuole più Stato, sì, di questo Stato qua si muore. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, 11:36 primi 34 secondi, ai compari dei conti della Belva, cioè Oscar, Mario, Carlo Alberto. Si è sommato in questa seconda parte della trasmissione Marcello Degni, esperto di finanza pubblica e procedure di bilancio, che è coautore con Pasquale Ferro di questo libro che invito a leggere tutti coloro che bestemmiucchiano perché lo Stato non li paga, se sono fornitori della pubblica amministrazione. Il titolo del libro è Il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, Castelvecchi, lo trovate in distribuzione dalla settimana prossima. Prima di tornare appunto a vedere, avendo individuato solo così per titoli alcuni problemi sul processo di formazione della spesa e del credito, ce ne sono poi anche altri nella gestione del debito da parte delle amministrazioni pubbliche. Sentiamo prima qualche telefonata, per esempio Michelangelo dalla provincia di Milano. Michelangelo. Sì, intanto complimenti per la vostra trasmissione chiarissima. Ascoltandovi vorrei parafrasare il film di Forrest Gump, comincio ad essere un po' stanchino. Cioè, veramente... Perché per farsi pagare bisogna fare coast to coast, caro esatto, Michelangelo. Ecco. Esatto, esatto. No, ma su questi argomenti. Allora, la domanda mia è secca e fuori di retorica. Io, ascoltando questi argomenti, ascoltando queste dichiarazioni anche del nostro Premier, mi piacerebbe vedere da parte di voi giornalisti, non voi ovviamente diretti, ma se ci fosse un po' più di voglia di essere un po' anglosassone. E lo spiego meglio, cioè questo argomento, che è un argomento centrale di fronte a una balla, che poi spiegata come l'ha spiegata benissimo Giannino, deve essere un attimo, come dire, non per mettere alla gogna il Premier, ma per fare capire a una classe politica che in fondo le parole sono fondamentali, cioè denotano i fatti poi che uno deve poi procedere. Se non le fai, stai zitto. Perché questo è tutto, è una, secondo me, è una procedura anche di, come dire, miglioramento di una cultura nei confronti anche della classe politica, che deve essere affrontata proprio anche dal mondo del giornalismo. Ma deve essere responsabile in maniera anglosassone. Ma scusi Michelangelo, secondo lei Bruno Vespa può essere considerato un modello di giornalismo anglosassone? No, non può essere. E allora si è risposto. Vent'anni, no, vent'anni che sta lì, vent'anni. Anche noi ci proviamo a fare gli anglosassoni. Un libro all'anno, un cinepanettone all'anno, una funzione notarile all'anno e passa la paura e il paese crepa. Posso chiudere? Allora questo denota che siamo veramente un paese molto malato, ma molto malato dalle fondamenta, cioè del fatto che comunque se si dice tutto quello che voi state dicendo in questo caso di, no, cito Bruno Vespa perché è vero, fa parte di questa oligarchia, cioè questo ossequità nei confronti della politica. Allora questo è veramente un paese molto malato, al di là dei problemi che abbiamo. No, al di là dei problemi oggettivi, c'è una questione culturale, culturale. No, comunque qui ai conti del Belva cerchiamo di fare gli anticorpi, vero? Cerchiamo di mordere, se non proprio gli anglosassoni, almeno i marziani, che dico? Oppure direttamente nel mondo animale, no? Non siamo gufi tutto sommato, ma ma poi abbiamo questo ascoltato, ha permesso che io sono completamente d'accordo con quello che dice Michelangelo, proprio il mio intervento era rinforzo, certo, non a confutazione, certo. Però poi abbiamo, diciamo, gli abituali ascoltatori che ci scrivono: andate a casa, uecchi, tromboni e cariatidi, sapete solo parlare male, buffoni Giorgio. Bene, che non so se quello è il cognome, però io ci tengo a far notare. Cioè, tu dici che si chiama Giorgio di nome e Buffoni Giorgio di cognome. Buffoni, una sorta di nome nome. Non però, è vero. No, ma questo è il testo, è identico, che ogni settimana manda due volte. Lui fa il rinvio e lo manda due volte. Io invece lo prendo benissimo. Noi assolviamo anche a un grande ruolo. Noi siamo una cura pubblica, un bersaglio, e chi ha problemi si scatena così. Meglio che lo faccia così piuttosto che picchiando la moglie e i figli. Quindi secondo me ma magari fanno tutto, sono multitasking, non si può mai dire. Assolviamo a un grande ruolo. Guardate, la radio in particolare, vi garantisco che questo è un grande ruolo, questo di sapere prendere anche insulti di questo tipo. Siamo un grande confessionale della Repubblica. Se tu vai in confessionale non è che insulti il sacerdote, diciamo. Talvolta sarebbe anche volta. Va bene, torniamo al punto. Allora, la questione è: abbiamo visto, insomma, bilanci di simili, questa spesa per competenza invece che per cassa, e poi diventa trattata solo per competenza, una maniera in cui da una parte si riconosce il credito e dall'altra però per cassa lo Stato centrale tira il rubinetto quando ha bisogno di diminuire la spesa. Però nella gestione poi della passività delle PA, almeno alcuni dei maggiori problemi e delle linee di intervento che indicate, quali sono, caro Degni? Allora, alcune cose sono state fatte, diciamo, dalla recente legislazione. Per esempio, il ruolo delle banche è stato inquadrato positivamente per accompagnare questo processo di normalizzazione, per il quale ci vorranno anni. Non è un processo che si risolverà in poco tempo. No, perché è evidente che appunto l'emersione su una piattaforma del credito da parte del creditore, nonché quindi significa dalla parte della PA, del debito, nelle forme che servono per la certificazione e la cessione a terzi, che sia poi prosoluto o prosolvendo, però quello che ha evidenziato è che proprio non ci siamo da questo punto di vista, quindi davvero servono anni. Servono anni, soprattutto come abbiamo detto, in alcuni settori, in alcuni territori. Un elemento di criticità che noi abbiamo rilevato in questi provvedimenti, che potrebbe essere corretto, insomma diamo dei suggerimenti lì, è che si è partiti dalla coda anziché dalla testa, cioè si è partiti dai crediti dei fornitori anziché partire dai sistemi contabili degli enti, perché tutti i debiti, qui il fatto anche che sono stati praticamente stimati, no? Cioè tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori, diciamo chi ha fornito merci, beni, servizi, stanno dentro la contabilità generale degli enti, e tutti gli enti, anche il più scalcinato, ha un sistema informatico in cui ci stanno le fatture passive sospese che devono essere pagate. Quindi io sarei partito da lì, da quella situazione, e anziché fare una piattaforma centralizzata nazionale, che ovviamente è molto complessa da gestire. Quindi si potrebbe integrare in alcune regioni, per esempio nel Lazio, anche in Lombardia. Sono state messe in campo delle centrali di pagamento che hanno aiutato il sistema sanitario in particolare a svolgere questa funzione molto più della piattaforma nazionale, se molto posso più della piattaforma. In Lombardia è avvenuto esattamente quello che stava dicendo Degni, sì. Esatto, e quindi questo potrebbe essere sviluppato, si potrebbe far svolgere piattaforme un ruolo di service anche per le amministrazioni minori, quelle che stanno più in difficoltà. Comunque, devo dire, siccome è molteplice la lista dei problemi da affrontare, poiché nel breve lo sforzo è fallito di risolvere il problema, bisogna tornare ai fondamentali, quelli indicati appunto da Ferno e da Degni in questo libro. Certo, anche a me sarebbe piaciuto vedere Vespa che diceva a Renzi: beh, allora quando è che vai a correre su sto Monte Senario? Questa roba invece non funziona così in Italia, e lo Stato ha creduto di sgravarsi stanziando in teoria quei 57 miliardi, dicendo poi se non si vengono pagati non è problema mio. Ecco, invece il problema è esattamente quello di pagarli. Lo stesso Renzi un po' di mesi fa aveva detto che la procedura di effettiva erogazione dei fondi era estremamente complessa e lui stesso era rimasto perplesso. Però non mi pare che sia intervenuto per sciogliere i nodi. Esattamente. Ecco. Allora, quindi siccome bisogna sciogliere, altrimenti qua resteremo così, resteremo fottutamente aggravati. Nel frattempo, ripeto, io lo studio per la terza volta, noi abbiamo aggravato i fornitori pubblici anche su un meccanismo fiscale che ne drena la liquidità. Quindi è una doppia trappola che resta irrisolta. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta qui con i compagni dei conti della Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. E si è collegato anche Renato Cifarelli, sei con noi Renato? Buongiorno. Eccoci qua, immagino che tu abbia potuto ascoltarci comunque nella nostra galoppata verso il 95% di cartelle di esattoriali infondate, 95%, torno a riempirmi la bocca di questo dato che per me è veramente la beresina dello Stato tributario italiano. Dopodiché... Beh, ma quella cosa lì, Oscar, lo sai che la fanno perché così possono annunciare 115 miliardi di cartelle esattoriali soprattutto, di evasori. Soprattutto possono beccarsi gli incentivi sopra perché i dirigenti della Agenzia delle Entrate hanno gli incentivi. Hanno gli incentivi sul contestato, non sul riscosso. Quindi questa forse è una delle motivazioncelle per cui poi abbiamo 1.058 miliardi, di cui solo 50 miliardi trattabili di cartella. Sì, anche una volta le aziende, tanti anni fa, avevano gli agenti, gli pagavano le provvigioni sul venduto e non sull'incassato. Poi hanno capito che però non funziona, perché serve a far rimanere un po' troppi denari in tasca impropri. Sentiamo a questo proposito, credo, Gino da Bologna. Gino. Sì, pronto. Dica, Gino. Grazie della ascolta, mi sente bene? La sento benissimo, Gino. No, perché sentivo l'altro intervento al telefono. Ascolti, la cosa sarebbe lunga, ma cerchi di essere succinto. Cosa è finito? Mezzogiorno? No, cerchiamo di stringere prima. No, lei proceda. Sì, no, la cosa è semplicissima. Allora, un mese, due fa, mi suonano la casa, arriva, sono maresciallo della tendenza di finanza, so comodi. E la becca con l'amante. Sarebbe stato quasi meglio per sua moglie in ascolto. Non credo che sia una dichiarazione. No, non volevo, era una battuta. Comunque, vabbè, torniamo al punto. Arriva l'ispettore della finanza. Sì, mi dice: guardi, lei così così ha un appartamento in affitto. Sì, sì, giusto. Guardi, si presenti da noi, contratto, tutto quello, mi presentano un foglio, quello che gli devo presentare. Sì. Benissimo, prepari il tutto, contratto da affitto, e mi dice fra l'altro se venga pure anche se non ha niente, ha capito? Sì, No. Io invece ho un contratto tutto, e mi presento. Presenti il tutto, contratto, gli inquilini, i subenti, bla bla. Poi, grazie, torno a casa. Dopo qualche mese, un mese o due, mi chiamano, dico sarà chiuso. No, mi fanno un verbale dove dicono: questo qui è venuto un signore o due che ha detto che no, non prende i 500-600 di affitto, ma ne prende 1.000 perché lui ha detto che le dà 200, ci sono altre. Quindi hanno accusato di avere un affitto in nero. No, non lo avevano fitto, io ho un contratto regolare, però rispetto a quello che c'è scritto nel contratto, lei prende di più. Sì. Ma vi dicono, guardi, è semplicissimo, con questi ragazzi, subentri che faccio, c'è luce, tutte le bollette, il condominio, gli faccio un forfè, non sto a dividere. Va bene. Comunque loro dicono, noi bisogna che le facciamo il verbale, questo per il verbale, ma è un fatto che va a finire poi all'Agenzia delle Entrate. Questo poi loro, in base a questo, non è che guardano quest'anno, loro considerano i 5 anni precedenti. Ah certo, questo è poco, ma è sicuro. Cioè lei è pronto a ricevere un accertamento che diventerà titolo esecutivo di fronte al quale il commercialista gli dirà è meglio che paghiamo piuttosto che impugnarlo. Io ho il dovere di dirglielo, caro Gino da Bologna, è così che si forma quella bella montagnetta del 95% di dati non trattabili, e grazie per averci telefonato per segnalarlo. Renato, allora questa settimana cosa ci proponi come non no. si può fare. Volevo tornare sui pagamenti dello Stato un attimo. Oh, noi vai. Per esempio non forniamo la pubblica amministrazione per scelta proprio per i pagamenti, però per tutti i fan del pubblico è meglio. Sai che sono un po' di mesi che io continuo a citarlo, essendo della provincia, la SM Pavia. Consiglio sì. di continuare a seguire questa bella vicenda. Ci sono sviluppi? Sì, il presidente, quello che ha detto che lui firmava, ma erano gli uffici che preparavano le cose, è ospite dello Stato in questo momento. È lì vicino. Non è proprio vicino alla radio, lo stanno rinfrescando sui poteri quando si è alla testa di un'azienda. Non è che si può dire, ma io firmo tutto, c'è qualcun altro. No, ma la zona dove è ospite lui in questo momento è un po' più a sud della radio, però è lì a Milano, diciamo. Però è dedicata a un santo, è dedicata a un santo. Sì. Ma adesso la vogliono riqualificare, vedremo se lo spostano fuori. Ma 2000 no, invece una cosa che mi ha colpito molto questa settimana e mi ha fatto tutto sommato arrabbiare, e finiva fra le notiziole nella paginetta in fondo dei giornali. Qual è? È tutta la questione sul concorso per i nuovi docenti. Sai che c'è adesso tutta la parte di inserimento dei concorsi e di tutta la polemica che è nata sul fatto che una parte del concorso gliela vogliono far fare in inglese. Allora, siamo nel 2016, in un mondo dove ormai è piccolissimo, dove internet impera, dove le aziende che stanno lavorando sono unicamente quelle che esportano, come sappiamo, cioè che hanno un buon mercato, sono unicamente quello che esportano. Eppure, e io mi chiedo, ma può esistere una persona, diciamo giovane, nel 2016, perché magari un anziano lo posso ancora capire, definita di cultura che non sa le lingue? E che quindi non può. A questa domanda la risposta è sì. E alla tua domanda successiva, esiste chi fa le impugnative per concorsi solo in inglese? La risposta è sì. Questa è la realtà d'Italia, Renato. Ho capito, però qui noi non possiamo avere degli studenti che sanno le lingue, perché ormai la maggior parte dei genitori capisce dei docenti qual è l'importanza, no. E abbiamo dei docenti che fanno l'impugnativa perché loro devono fare un pezzo in inglese? Renato, guarda, a Milano, dove ci sono 8 università diverse, è fiorita una polemica per quasi 2 anni sul fatto che vi fossero università, Bocconi, Politecnico e così via, che fanno dei corsi interi solo in inglese. E altri rettori e docenti hanno fatto documenti di protesta, questo non può diventare uno standard, questo è un errore che ci dequalifica. Sto dicendo di Milano, Milano, non sto dicendo Arcavacata in Calabria, con tutto rispetto per chi vi insegna e così via. Quindi questo che tu ci hai raccontato è un pezzo del ritardo italiano, e c'è anche negli atenei dell'università, c'è anche lì nella parte più elevata, diciamo, culturalmente del paese. Comunque, beh, poi vogliamo far venire gli studenti stranieri. Capito. L'attrattività, esattamente. Comunque, detto tutto questo, caro Renato, allora questa settimana, tanto per capirci, cari ascoltatori, freno per il terzo trimestre della crescita italiana, B, 364 banche che restano con 5 milioni di capitali, e auguri a chi dice che l'Italia non ha un problema perché tanto fallisce Deutsche Bank, ma quando la piantata di farvi prendere per il culo da chi vi racconta cose simili. Cari colleghi giornalisti, sto parlando di noi stessi però, perché non è solo colpa della politica, questo è il mio atto di autoaccusa da questa radio, sperando che non si arrabbino ai piani altri di questo gruppo editoriale. Saluti oltre che da me, da Mario e da Carlo Alberto. Buon fine settimana a tutti, e anche da Renato Cifarelli, grazie a tutti, appuntamento all'8:15 lunedì mattina con gli incazzatissimi Oscar Giannino e Alessandro Milan. Attenti a noi due! Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, l'è tempo.